Storiacce di Raffaella Calandra. Rubare al supermercato è sempre reato, anche se lo si fa per fame. Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione chiamata a giudicare un episodio avvenuto a Torino. Chi ruba piccole quantità di cibo, spinto dall'esigenza di nutrirsi, non commette reato. La parola fine su questa non banale questione l'ha messa la Corte di Cassazione, con la sentenza di assoluzione per un senza fissa dimora che per sfamarsi aveva rubato wurstel e formaggio da un supermercato. No, non è giusto, una roba del genere. Un'attenuazione, diciamo, del gesto che tutto sommato resta sempre il gesto di chi ruba. Al di là delle opposte pronunce della Cassazione, il fatto è che, come già scriveva Alessandro Manzoni, i poveri ci vuol poco a farli comparire birboni. Il tema è questo ed è, ahimè, assai serio. La giustizia è roba da ricchi. Difendersi costa, avviare cause per veder riconosciuti i propri diritti a degli oneri fissi, e anche se la legge è uguale per tutti, come scritto a caratteri cubitali in tutte le aule dei tribunali italiani, alla fine le carceri in realtà sono piene soprattutto di piccoli delinquenti. Per quale ragione è davvero garantito a tutti il diritto alla difesa che la Costituzione sancisce, anche ai poveri? Da cui parte questa puntata di Storiacce. In questi casi dovrebbe essere una cosa in automatico, dopo una soluzione di questo tipo non sarebbe il caso di ricominciare un altro processo per ottenere dei eventuali risarcimenti. Ecco, io in questi anni vivevo di stenti, naturalmente grazie alla parrocchia, grazie a degli amici, grazie a piccoli lavoretti che potevo fare. Di stenti, Giuseppe Gulotta ha vissuto nei suoi 30 anni in cui ha portato avanti la sua battaglia per vedersi proclamare innocente e poi ancora per 4 anni prima che lo Stato lo risarcisse per i 22 anni. Sì, avete capito bene, 22 anni passati da innocente in carcere. Lui ha potuto e voluto farlo perché non si è arreso mai e perché ha anche trovato una parrocchia che lo aiutava, una moglie al suo fianco e degli avvocati convinti delle sue ragioni e della sua innocenza, che hanno anticipato tutte le spese legali significative, solo nella convinzione che poi sarebbero stati ripagati una volta ottenuto il risarcimento. Ed effettivamente è andata così. Al di là della terribile storia specifica di Giuseppe, che qui a Storiacce già anni fa avevamo raccontato e che, se volete, ritrovate nell'archivio, il suo racconto ci conferma ancora una volta anche come la giustizia sia davvero roba da ricchi. Per parafrasare un duro pamphlet scritto proprio da un magistrato, Elisa Pazzè, sostituto procuratore a Torino per i caratteri di La Terza. Io parto da un dato statistico. Le nostre carceri sono piene di poveri, mentre mancano completamente alcune categorie privilegiate. Più di un terzo di coloro che sono incarcerati sono spacciatori, che un altro abbondante terzo dei detenuti è costituito da ladri, rapinatori, insomma responsabili dei cosiddetti reati di strada. Poi ci sono omicidi, stupratori, mafiosi, mentre mancano quasi del tutto categorie di responsabili di alcuni reati come l'evasione fiscale, la bancarotta, reati societari. I classici colletti bianchi, diciamo, anche la corruzione. Esatto, anche di corruttori. Visto che sempre le statistiche ci dicono che in Italia sono detenuti lo 0,6% di cosiddetti colletti bianchi a fronte di un 11,8% della Germania, quindi il rapporto è di 1-20, si pone questo interrogativo: ma in Italia abbiamo 20 volte meno di delinquenza di questo genere? Sicuramente no, semmai è il contrario. E di qui nasce l'interrogativo su come funziona la nostra giustizia, se davvero è una giustizia che usa una mano un po' più pesante verso alcuni settori della società che sono già più penalizzati e una mano molto più leggera nei confronti di altri. E i numeri citati parlano chiaro: sugli oltre 60.000 detenuti delle carceri italiane, soltanto 11 sono accusati per corruzione, 26 per concussione, 46 per peculato, cioè per furto di denaro pubblico, 27 per abuso d'ufficio aggravato, stando a quanto calcola il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Questi sono dati aggiornati al novembre 2013 per l'Espresso. In Germania per i reati economici e finanziari invece ci sono in cella 8.600 detenuti, una bella differenza. E di fronte all'enormità di un'evasione stimata nel nostro paese di 180 miliardi di euro all'anno, in cella per frode fiscale ci sono soltanto 168 persone e appena 3 arrestati per reati societari o falso in bilancio. La lunghezza dei processi e la prescrizione difendono dunque i potenti e dall'altra parte non sfugge invece alla mano pesante delle leggi chi ruba nei supermercati, chi raccatta ferri vecchi, chi non riesce ad avere un difensore di fiducia e ricorre quindi a quello d'ufficio. Ma non è la stessa cosa, diciamolo chiaramente, e lo riconosce lo stesso avvocato Diego Lunardon, responsabile dell'Osservatorio dell'Unione Camere Penali sulla difesa d'ufficio. Lo Stato ritiene che sia un diritto di ciascuno avere un difensore, ma anche un interesse generale quello della presenza di un difensore tecnico, per cui in assenza della norma di un difensore vi è la designazione di un difensore d'ufficio. Molte volte va detto che chi non designa un difensore d'ufficio non lo fa per disinteresse nei confronti del procedimento penale, ma magari proprio perché ritiene di non poter accedere a una difesa fiduciaria, nell'erronea anche convinzione che magari la difesa fiduciaria abbia un costo superiore. Il difensore d'ufficio comunque andrebbe, almeno sul piano teorico, pagato. I costi della difesa non sono solo o soltanto la difesa, i costi della avvocato, ma molto spesso, soprattutto in certe tipologie di procedimenti penali, i costi della difesa dovrebbero comprendere anche quelli di un consulente tecnico, per esempio. Costano e molte volte costano addirittura forse più degli avvocati. Quindi nel concreto vuol dire che se io, ad esempio, per provare di non aver sparato ad una persona ho bisogno anche di una perizia specifica, ma questo vale anche per reati molto meno gravi, i periti di parte ormai sono onnipresenti e visto che questa perizia ha dei costi superiori e diversi da quelli della difesa, se io non me lo posso permettere, in conclusione, non avrò la perizia e probabilmente non avrò neanche quell'elemento utile a scagionarmi. Anche se la legge è uguale per tutti, dunque, e anche se la Costituzione, come stiamo ripetendo, prevede per tutti il diritto alla difesa. E allora viene da chiedersi, non senza un brivido, lo ammetto, ma quanti innocenti potrebbero esserci nelle nostre carceri? Persone detenute, poi certo, risarcite dallo Stato, come nel caso di Giuseppe Gulotta, ma quali soldi possono mai risarcire chi resta per anni in carcere e da innocente? Casomai anche perché non ha potuto avere una difesa adeguata? Ed è anche per questo che ora lo stesso Gulotta, ora che si è ritrovato ad avere, dopo una vita di stenti e di prigionia, ben 6 miliardi di euro, ora ha pensato anche di aiutare chi proclama dal carcere la sua innocenza e lo fa con una fondazione. Con questo risarcimento una cifra l'ho messa a disposizione per una fondazione che ho istituito con i miei due avvocati che aiuterà detenuti che in qualche modo sono incappati in questa giustizia maledetta. Quindi detenuti che reclamano la loro innocenza ma che non hanno una solidità economica per riuscire ad affrontare i processi e quindi anche i costi. La fondazione stanzierà eventualmente una congrua cifra per poter affrontare un eventuale processo di revisione. Ma state già trattando qualche caso oppure no? Ne abbiamo uno per ora a Lecce di una signora che avrebbe, dicono, ammazzato il marito, ma sembra che le prove a favore suo, che lei non c'entra nulla e sta a scontare un ergastolo, è la signora Lucia Bartolomeo. Quindi se lei non avesse avuto, cioè se non ci fosse stata la buona volontà, di questi avvocati e anche la loro volontà anche ad affrontare anche loro delle spese legali e delle spese processuali, comunque da un esito incerto, avrebbe rinunciato alla sua battaglia da cittadino innocente in carcere? Questo non glielo so dire, io le posso dire solo che ho trovato due avvocati che veramente al momento che io l'ho contattato, hanno creduto alla mia versione, a rischio che alla fine non prendevano nulla. Loro hanno affrontato tutte le spese processuali, io spendevo solo per andare lì con l'aiuto della parrocchia di Certaldo, in qualche modo ce la facevo. Lei quanto ha avuto come risarcimento dallo Stato per essere rimasto in carcere, ricordiamolo, quanti anni? 22 anni di carcere. in 36 anni di vita rovinata, e lo Stato mi ha concesso 6 milioni e 500 mila euro. Nessun tesoretto le può restituire 22 anni di carcere da innocente, questo senza alcun dubbio, ma almeno con questo risarcimento dello Stato lei è riuscito a pagare gli avvocati e adesso diciamo anche a poter avere di una certa sua agiatezza. Però prima lei diceva mi ha aiutato la parrocchia. Sì, in qualche modo, sia spiritualmente, siccome io sono credente, sia anche un po' materialmente, qualche cosa mi dava anche il prete di Certaldo. Avete fatto un calcolo, diciamo, di quanto sono costate le battaglie legali che lei ha dovuto affrontare per vedersi riconosciuta la sua innocenza? Lo sanno gli avvocati quanto hanno speso. Io con loro, diciamo, era un accordo di una percentuale su eventuale risarcimento danni che poi alla fine hanno preso, e le spese mie vive sono state circa, tra andare e venire, un centinaio di mila euro, ecco. Ma non è soltanto lui, sono gli stessi magistrati, a volte come il PM di Torino Elisa Pazè, ad ammettere che la giustizia è roba da ricchi, come abbiamo detto in apertura di questa puntata, è roba da ricchi per i suoi costi e per i suoi tempi, che incidono e non poco anche sulla capacità del nostro paese di attrarre ad esempio capitali esteri. Ma a voi è mai capitato di voler pensare di presentare denuncia, ricorsi, querelle, casomai, invece di aver desistito anche solo pensando ai tempi, ai costi e a cui sareste andati incontro? Pensateci un attimo e se vi va scriveteci, e da qui noi ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Storiacce. Un processo che abbia una durata irragionevole diviene un processo ingiusto. Non un atto di giustizia, seppure tardivo e con un'efficienza affievolita, bensì un'ulteriore ingiustizia che si somma a quella già patita dal cittadino, amplificandone ed aggravandone le conseguenze. Una litania ricorrente questa, ad ogni anno giudiziario quasi. I tempi lunghi della giustizia e i costi pesanti della giustizia italiana, soprattutto civile, sono un tema concreto. E non pensate che lo siano soltanto per le più ampie teoriche discussioni di addetti ai lavori sulla riforma, quanto proprio per le ricadute concrete nella vita di tutti noi. Se io non posso permettermi, ad esempio, i costi della giustizia, quella è una giustizia non giusta, perché esclude alcuni e in sostanza sempre i meno ricchi. Chi non può permettersi i costi delle carte bollate e dei tempi lunghi dei processi resta al di fuori della giustizia. Addirittura nel suo duro pamphlet, che si intitola in modo esplicito Giustizia, roba da ricchi, edito dalla Terza, un PM di Torino, Elisa Pazè, parla di diverso percorso dei reati tra poveri e ricchi. Sicuramente influisce molto avere un bravo difensore che conosca bene, insomma, gli ingranaggi giudiziari. Contano però anche molti altri meccanismi. Uno di questi è l'entità delle pene. È vero che per alcune tipologie di reati come la corruzione le pene sono state innalzate, per altri invece darei una valutazione diversa. Penso per esempio ai reati fiscali, in cui si è avuto un innalzamento delle pene in realtà molto più blando e accompagnato però da un innalzamento delle soglie di punibilità, per cui tutti hanno parlato di fatto di depenalizzazione. Un furto, una rapina non richiedono degli accertamenti complessi. Nel giro di 48 ore o al massimo di qualche giorno o qualche settimana, se ci sono rinvii, si arriva a una condanna in primo grado. Nel caso, faccio un esempio, di un illecito fiscale, il processo parte già in ritardo, perché di solito l'Agenzia delle Entrate trasmette la notizia di reato 2 o 3 anni dopo. Dopodiché ci vogliono accertamenti complessi, anche perché tra l'altro l'evasione fiscale sotto una certa soglia è reato, l'elusione fiscale no. Certo. E quindi per tutti questi generi di reati scatta molto più facilmente, si può dire tranquillamente nella stragrande maggioranza dei casi, la prescrizione. Una buona difesa riesce ad allungare i tempi del processo e quindi riesce ad aumentare, diciamo, l'impunità di chi viene indagato e processato per questo tipo di reati. C'è stato un episodio, c'è stato qualche elemento che in qualche modo per cui ha maturato questa decisione? decisione l'ha spinta ad arrivare a raccontare questo tipo di meccanismo giudiziario? Nella pratica quotidiana di tutti i magistrati si riscontra proprio questo meccanismo differente. Per esempio, il furto in supermercato è un reato altamente diffuso e per cui ci sono pene sostanzialmente alte se rapportate al fatto, perché anche solo rubare una mela, per quanto si applichino tutte le attenuanti possibili, comporta la pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, oppure attività come raccogliere rottami in giro che sono parimenti perseguite. C'è proprio un po' la percezione quotidiana di come si tenda a irrogare pene sproporzionate, a mio avviso, per certe tipologie di reati, mentre per altri si fa molta più fatica ad arrivare a condanne. Ecco, lei fa una distinzione che mi ha colpito tra poveri buoni e poveri cattivi. È del Medioevo che si tende a distinguere fra i cosiddetti fannulloni che non hanno voglia di lavorare, vagabondano, pensano che sia più comodo mendicare anziché lavorare, e poi i poveri buoni che erano sostanzialmente nel Medioevo e poi anche nei secoli successivi le vedove e i bambini piccoli. Per cui abbiamo tutta una legislazione nei secoli scorsi che da un lato stabilisce l'obbligo di lavorare e per chi non ci sta a lavorare c'era la galera, c'era la reclusione. Questa distinzione attraversa il corso della storia, nel senso che poi la ritroviamo anche all'inizio del Novecento, sotto il codice fascista, poi mendicare diventa un reato e poi verso la fine del 1900, finalmente, grazie alla Corte Costituzionale e poi a un intervento legislativo, si è deciso che si può mendicare, che questo non costituisce un reato. Però è rimasta un pochettino la percezione che la mendicità sia segno non della mancanza di mezzi, ma della mancanza di volontà di lavorare o di trarre altrimenti sostentamento. Lo Stato però garantisce sempre la difesa, e la Costituzione a stabilirlo, a chi non ha un suo avvocato di fiducia, a chi non se lo può permettere, ma anche questi avvocati che a volte, diciamolo chiaramente, investono minor tempo, studio ed energia a questi casi invece che a quelli dei loro clienti, anche questi avvocati comunque devono giustamente essere ricompensati per le loro prestazioni professionali ed è lo Stato a doverli pagare, ma lo fa quasi sempre con mesi e mesi di ritardo e comunque con tariffe assai esigue, tanto che gli stessi avvocati sono costretti a battere cassa, come sanno bene all'Osservatorio dell'Unione Camere Penali sulla difesa d'ufficio diretto dall'avvocato Diego Lunardon. Un primo ostacolo sono i limiti di accesso a questo servizio. La condizione reddituale di accesso a questo beneficio è di 11.500 euro lordi l'anno. È evidente che si tratta di un livello di reddito assolutamente insufficiente. Chi suo malgrado è al di sotto di questo limite di reddito può chiedere, tanto sotto il versante civile naturalmente quanto sotto il versante penale, può chiedere al tribunale di accedere appunto al patrocinio spese dello Stato. Possono svolgere questa attività soltanto gli avvocati che volontariamente accettino di essere iscritti al relativo elenco. Il problema è sicuramente quello delle tempistiche di liquidazione, ma anche degli importi di liquidazione, nel senso che il difensore di fiducia può, nei limiti dei parametri, liberamente pattuire quello che può essere il suo compenso. Naturalmente, se invece ad essere liquidato il compenso avviene da parte del magistrato, gli importi generalmente sono sempre inferiori. Molto spesso l'avvocatura, o almeno una certa parte dell'avvocatura, ha un certo tipo di resistenza nei confronti di questo strumento, di questo istituto, perché le tempistiche di liquidazione, come dicevamo, sono molto spesso lunghe. Il più delle volte l'avvocato deve comunque emettere la fattura, per cui anche anticipare costi come IVA, eccetera. Tutto questo fa sì che una certa categoria di avvocati si tenga distante da questo istituto. A scapito di chi? Beh, naturalmente a scapito dei pochi che a questo istituto possono accedere. E avere o meno una disponibilità economica, oltre che nell'accesso alla difesa, può cambiare anche i tempi dell'eventuale uscita dal carcere. Anche in questo la giustizia è roba da ricchi. Ad esempio, sempre grazie alle disponibilità economiche si può usufruire con maggiore larghezza della sospensione della pena, perché questa è subordinata, ad esempio, alla possibilità di risarcire le vittime. E se comunque, il più delle volte, la prima volta viene quasi sempre concessa, la seconda volta la sospensione viene accordata quasi esclusivamente se chi è condannato riesce a riparare il suo danno e quindi innanzitutto a risarcire. E poi ancora, è il denaro a consentire a chi è responsabile di una contravvenzione di ottenere subito l'estinzione del reato, pagando prima del processo un terzo del massimo dell'ammenda e quindi mettere mano al portafogli ancora una volta. Per non parlare del fatto che i costi della giustizia lenta, come ha calcolato tempo fa uno studio di Confartigianato, tengono lontane anche le imprese estere da investire. Dunque, una giustizia lenta provoca discriminazioni. Ma queste discriminazioni, ahimè, esistevano già ai tempi degli antichi e questo poco ci conforta. E infatti proprio dal diritto romano arriva, ad esempio, la parola oblazione. E allora, come sempre a questo punto, la linea va a Giorgio Giranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Un divertente passo di Cicerone racconta la giustizia spettacolo nell'antica Roma. Quando l'avvocato sta per parlare in tribunale, il pubblico deve affollarsi, i cancellieri devono indicare i posti liberi, si deve fare silenzio quando l'avvocato si alza, lo si deve applaudire quando parla e si deve ridere o piangere quando l'avvocato lo vuole. A dispetto di questo divismo avvocatizio, la professione forense a Roma fu a lungo una prestazione gratuita da parte di persone che magari usavano la ribalta dei processi per costruirsi una carriera politica. Ma gli avvocati iniziarono presto a essere molto esosi. Non c'è nulla di tanto venale come la perfidia degli avvocati, scriveva addirittura lo storico Tacito. Già nel 204 a.C. il tribuno della plebe Cincio Alimento emanò una legge che vietava di versare denaro a un avvocato prima di una causa. Era un modo per mettere un argine alle crescenti spese legali, ma non bastò. Secoli dopo, al tempo dell'imperatore Claudio, fece scandalo il caso di un cliente che si era visto presentare una parcella di ben 400.000 sesterzi, una somma folle. L'imperatore stabilì perciò un tetto ai compensi, 10.000 sesterzi per una causa, non uno di più. Ma gli avvocati avevano comunque molti modi per farsi pagare. Cicerone, per esempio, accettò come onorario il dono di un'intera biblioteca, dopo aver consultato un giurista per accertarsi che un compenso in libri non violava la legge. Dubitiamo però che oggi un avvocato accetterebbe di farsi pagare i libri. E a voi è mai capitato di avere a che fare con la giustizia e di dover per questo mettere mani al portafogli? Oppure di aver più volte pensato di voler presentare una denuncia, una querela e poi invece di aver lasciato stare pensando ai tempi lunghi e anche ai costi che questo avrebbe comportato? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter ci trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Grazie in regia a Carmelo Lauricella e a voi tutti un saluto da Raffaella Calandra.